Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici e buona Pasqua. Passiamo questa giornata di festa con un grande artista italiano, un grande regista, Pupi Avati, che ha raccolto la sua biografia nel libro La Grande Invenzione, un'autobiografia pubblicata da Rizzoli, 390 pagine, 18 euro. Pupi Avati apre il libro confessandosi come un gran bugiardo, ma il suo vizio, spiega, è alla base della sua arte. Per me, scrive, la bugia non era altro che una diversa modalità dell'immaginazione, un modo per dilatare il reale, e questo, in definitiva, è ciò che mi ha spinto a fare il cinema. La prima passione artistica di Avati fu il jazz, che amò in modo disperato, scrive l'autore. Ma la musica non gli diede il successo che sperava, e allora il ragazzo, proveniente da una famiglia della buona borghesia bolognese, che aveva dovuto anche subire dei rovesci finanziari e che aveva subito anche la perdita del capofamiglia, del padre morto molto giovane, Pupi Avati insomma si dà da fare fin da giovane e approda al cinema relativamente adulto, dopo aver fatto perfino il dirigente, il venditore di un marchio che introdusse in Italia i surgelati. Anche le prime prove cinematografiche, per la verità, sono abbastanza catastrofiche. Lo appoggiano molto la madre e il fratello, che si sono trasferiti a Roma proprio per dargli una mano, ma appunto queste prove vanno male, tanto da renderlo, teme a un certo punto il regista, quasi una macchietta nella sua stessa città e da garantirgli un avvenire piuttosto difficile. Ma poi le cose cambiano, Avati comincia a lavorare nel campo della televisione con autori come Sandro Bolchi, che gli affida un carosello da girare con un mostro sacro dell'epoca come Alberto Lionello, e da lì poi una carriera che lo rende protagonista del cinema non soltanto italiano, sempre con alti e bassi, che lui onestamente qui confessa, e con la collaborazione di attori famosi e meno che con lui trovano il successo, per esempio Carlo Delle Piane e Neri Marcore. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Pupi Avati. Buongiorno. Pupi Avati, lei confessa a un certo punto nel suo libro di amare molto le biografie, nelle quali anzi corre subito a vedere il finale, a leggere il finale. Che cosa l'ha spinta a scrivere la sua biografia con questo libro? Innanzitutto perché non conoscevo il finale, quindi spero di conoscerlo più in là possibile. Ma mi ha spinto l'età che ho, l'esperienza che ho alle spalle, il fatto che vedo attorno a me un sacco di ragazzi, di giovani, scoraggiati, che non hanno neppure l'ardire di immaginare che possa esistere un futuro, che vivono totalmente ripiegato su un presente plumbeo, rinunciatario, e insomma uno come me, che è veramente la persona più improbabile a trovarsi oggi ad avere alle spalle 45 film fatti, venditore di surgelati a Bologna 50 anni fa, uno che incontra una ragazzina a Bologna 49 anni fa e la vede passare e dice: quella lì mi piace, adesso mi trovo suo marito con figli e nipoti, con un matrimonio alle spalle di mezzo secolo. Insomma, ho suonato in tutta Europa, non ero un granché, vabbè, però ho suonato in tutta Europa. Insomma, la vita veramente ci riserva delle cose belle e brutte, che sono assolutamente imprevedibili, a patto che uno ci creda, confidi un po' nella vita. E a proposito di questo, lei scrive di vivere spesso una vera e propria nostalgia del presente, proprio per attaccarsi ai bei momenti, per avere poi qualcosa a cui aggrapparsi. Tanti brutti momenti che la vita ci riserva, avere una scorta, avere nel bagagliaio qualche bella immagine, qualche bella emozione che abbiamo vissuto al momento con un eccesso di frettolosità, invece averla veramente fissata, ecco, sedimentata dentro di noi, per potercela in qualche modo riproporre a noi stessi. Io ho uno strumento meraviglioso che è il cinema, attraverso il quale riesco veramente a rimettere insieme il mio passato, delegando magari giovani attori a dire quello che noi dicemmo, a fare quello che noi facemmo, ma ad altri che questo strumento è precluso, almeno quella, almeno avere veramente la sensazione in certi momenti di dire: ma questo è un momento eccezionale della mia vita, ecco, questo lo devo fissare, devo, come si fa con il computer, no? Salva, metterlo in salvo, proteggerlo, farlo diventare un file da richiamare nei momenti insomma di difficoltà. E infatti lei ha scritto, sottolineandolo, scrivendolo in corsivo nel suo libro, che il tempo è più grande. Il tempo è più grande, il tempo è più grande, quindi è più rassicurante rispetto a quelle che sono le nostre piccolezze. Nei momenti difficili della mia vita io vado ai Fori Imperiali con un classico della letteratura latina o greca, ecco, e leggo qualche pagina e mi trovo immerso veramente in un contesto, in un mondo che ha delle dimensioni così straordinarie, per cui veramente il mio problema diventa assolutamente irrisorio, così piccolo, così addirittura imbarazzante. Senta, nel suo libro lei confessa di non volersi conoscere troppo, infatti scrive che dallo psicanalista non ci andrò mai, sarebbe come svelare a me stesso chi sono. Ecco, si è scoperto qualcosa nello scrivere questa sua biografia? Beh, ho scoperto di aver avuto una vita molto molto molto movimentata e di dovere probabilmente la mia pochissima di creatività, sul quale poi ancora oggi conto, probabilmente all'aver dimostrato fin da subito, da timido quale sono sempre stato, da un po' da emarginato come ho vissuto la mia giovinezza e la mia adolescenza, un'attenzione che mi ha permesso appunto di incamerare una conoscenza delle cose del mondo e soprattutto degli esseri umani che oggi mi aiuta moltissimo a scrivere le mie storie. I suoi amici scomparsi li definisce la troupe che si è celata nell'altrove. Che cosa rappresentano questi intermezzi dedicati a loro che scandiscono? Io vengo dalla cultura contadina e nel libro lo racconto come io trascorsi i primi anni della mia vita in campagna per motivi bellici da bambini, quindi quell'imprinting lì che poi i gesuiti dicevano: datemi un bambino i primi 5 anni della sua vita e riprendetevelo, sarà il nostro paese. Quell'imprinting lì ha fatto sì che la cultura contadina ti insegna un rapporto soprattutto con i morti, con i defunti, con l'aldilà, col fantastico, un tipo di religiosità che è anche, sì, è vero, scaramantica, ma è aperta al meraviglioso. La favola contadina ti apre veramente degli squarci sull'orrore, sui baratri. Insomma, allora questo essere vissuti in quella cultura là, in quel mondo là, mi ha dato questa possibilità di vedere queste cose con un occhio completamente diverso. Ecco, fra questi amici vogliamo ricordarne una sola, Mariangela Melato? Mariangela è nata come attrice un giorno dell'estate del 69, del tutto casualmente, perché era venuta in modo totalmente scorretto a sostituire un'altra attrice che avevo scelto a Milano, anch'essa allieva della scuola del piccolo, ma non avevo scelto certamente lei. E lei si arriva e dice: la mia amica non ha potuto, cosa che è una scorrettezza estrema, perché non si è un'amica, viene un'altra. E io l'ho lasciata fuori da questa chiesa dove stavamo girando tutto il giorno, convinto che se ne sarebbe andata. Invece non se n'è andata, la sua tenacia ha fatto sì che sia rimasta seduta a quel tavolino di quel bar dall'altra parte della spiazza e i miei aiuti mi dicevano: ancora lì, ancora lì, ancora lì. A sera mi sono intenerito, ho detto: vabbè, si vada a provare il costume, queste sono le scene, le battute, ci vediamo domani. Il giorno dopo, quando ha detto la sua prima battuta, io veramente ho avuto un brivido e questa emozione che ha dato nell'interpretare questo ruolo l'ha condivisa tutta la troupe. È la prima volta, che era il mio secondo film, che io vedevo una troupe applaudire un attore, che è una cosa che succede molto raramente. E le chiedi, mi ricordo: ma lei come si chiama? Mariangela Melato. E le dissi: ma lei, Mariangela Melato, lo sa che è più brava lei da sola di tutti noi messi insieme. E lì è nata lei. Senta, parliamo di un film che si svolge proprio nella Settimana Santa che si è appena conclusa, Magnificat. Bravo, che lei definisce il racconto di un'umanità che ha una fede incrollabile pur vivendo in condizioni terribili. Ecco, a parte questo film, che posto ha la fede nella sua opera, nella sua vita? Beh, la fede è... io sono una persona che vuole ostinatamente credere, cioè che crede al di là della propria ragione. La mia ragione mi indurrebbe tutte le mattine a diffidare, a non confidare nel fatto che quei miei amici che lei ha evocato, che stanno ad aspettarmi nell'altrove al di là e che cominciano a essere tanti, ecco, io possa rincontrarli. Ma non è per questo che io credo, non è per ritrovare i miei amici della jazz band, degli scout, della troupe. Io mi ostino a voler credere perché penso che sia necessario qualcuno che a un certo punto ristabilisca la giustizia. E siccome non è il mio caso, ma vedo continuamente, ho visto nella mia lunga vita, vicende umane segnate dal dolore, dall'inizio alla fine, senza un momento di tregua. E che penso che queste persone, queste famiglie, questi genitori che hanno perso un figlio, insomma, dove veramente il dolore è atroce, insopportabile, ecco, meriti, debba avere un secondo tempo con un lieto fine. Ci deve essere qualcuno che li attende abbracciandoli, questi esseri umani, che ci sia qualcuno a cui rivolgersi e chiedere, soprattutto per loro, veramente, quello che non hanno avuto. Senta, una bella immagine con la quale si chiude il suo libro è quella del trasloco tra un'età della vita e l'altra, e un'età successiva. Che cosa intende con questa immagine? Ma intendo, credo, vivendola su me stesso, cioè verificandola appunto nel mio rapporto col mio fisico, io sto scoprendo che da un po' di tempo che è iniziato un percorso di biforcazione fra quello che è il mio io e quello che è il mio fisico, mentre c'è sempre stata una sinergia fortissima, un'identità fortissima fra, e non si è mai posto il problema, fra quello che ero io, la mia mente, il mio pensiero e il mio corpo. Ecco, da qualche anno io incomincio a sentire che questo corpo non mi obbedisce più, ma io lo osservo in qualche modo nella sua incapacità ad obbedirmi come cadevo un tempo. Dal momento della prima volta, mi ricordo molti anni fa, a Rimini, una sera in cui mi resi conto che non riuscivo più a leggere con la facilità, avevo bisogno di più luce, e quindi il giorno dopo ricorsi ai miei primi occhiali. Ecco, da lì è iniziata quella che è appunto una sorta di cerimonia del commiato fra me e il mio corpo, che poi è destinato quindi ad avere un suo percorso. Io gli sono molto riconoscente. Lì nel mio libro cito la metafora di come ci si affezionano automobili, no? E poi nel momento in cui la devi cambiare, insomma, ci sono delle affettività, delle fusioni che avvengono fra te e questo mezzo col quale hai condiviso veramente un percorso della tua vita, un tratto della tua vita. Ecco, e quindi le stagioni si susseguono. E adesso che sono entrato nella stagione, adesso non so se la mia età è la terza, la quarta, l'ottava della vita, non so come definirla, comunque è prossima ai titoli di coda, ecco, in questo momento io sento veramente che il mio corpo sta allontanandosi sempre di più dal mio io. Sono due entità completamente diverse, non sono la stessa cosa, non sono coincidenti. E questo mi fa pensare appunto che ci sia qualcosa oltre alla nostra vicenda umana. Grazie a Pupi Avati, autore della Grande Invenzione. Buona Pasqua. A lei, grazie, buona Pasqua. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dunque, Pasqua, Pasquetta, speriamo che la primavera si consolidi, comincia una stagione che possiamo dedicare anche a qualche viaggio, a qualche gita. Allora vi segnalo alcuni libri sul tema del viaggio e comincio con Viaggi e viaggiatori nell'Ottocento, curato da Marco Severini, che è uno storico, pubblicato da Marsilio, 462 pagine, 34 euro. Il libro nasce come un convegno su questo tema e quindi è abbastanza dotto, anche se affronta figure ed esperienze molto note. Un intervento per esempio riguarda i viaggi di Garibaldi, uno riguarda Cristina di Belgioioso, la protagonista dei salotti risorgimentali milanesi, che ebbe un'avventurosa esperienza in Medio Oriente dove si autoesiliò per 5 anni. E ricorda a questo proposito che proprio alla figura di Cristina di Belgioioso è dedicata una mostra organizzata dal FAI a Milano, alla Cavallerizza in via Carlo Foldi 2, che sarà aperta fino al 7 aprile. Più divulgativo è il libro di Andrei Elardi, che è uno studioso di storia del turismo, che si intitola Storia del viaggio e del turismo in Italia, pubblicato da Mursia, 676 pagine, 24 euro. Arriviamo nel libro rapidamente all'Ottocento, quando si consolida la tradizione del Grand Tour, cioè del giro che le persone colte dell'epoca facevano in Italia per visitare le bellezze del nostro paese a partire da quelle archeologiche. Quell'esperienza apre la strada al viaggio moderno. Un segnale in questa direzione era stato il viaggio di Martin Lutero, di cui parleremo più avanti, che viene a Roma nel 1510. Quel viaggio, secondo l'autore, rappresenta il distacco pressoché definitivo tra il pellegrino, il viandante medievale, e il viaggiatore moderno, poiché quest'ultimo non è più attento solo ad aspetti commerciali, religiosi o spirituali, ma pare interessato anche a fare nuove esperienze, spinto dal desiderio di conoscere la storia e le tradizioni. E nell'Ottocento avviene la svolta sociale verso il turismo moderno, che aiuta a scoprire un'Italia insospettabile. Per esempio, quando nel 1849 un giornalista napoletano si vuole avventurare in Basilicata, viene subito scoraggiato dagli amici. Sei pazzo, scrive l'autore, gli dice, quella è la Siberia, l'Africa nera. Addirittura, prima di partire, il giornalista, che si chiamava Cesare Malpica, fa testamento e poi approda a Potenza e da questa città, scrive l'autore, comincia a mandare lettere agli amici per spiegare che presso la famiglia che lo ospita ha trovato persino un cenacolo di poeti. E arrivano anche nuovi stimoli per i viaggi e per il turismo, per esempio le grandi esposizioni internazionali, i bagni di mare, le località di cura, le terme e poi naturalmente i nuovi mezzi di locomozione che aprono nuove prospettive, nuovi orizzonti. E anche gli influssi reciproci tra viaggio e turismo da un lato e le arti cambiano. Abbiamo parlato di cinema con Pupi Avati, allora ricordiamo proprio il rapporto che c'è tra il viaggio e il cinema, di cui per esempio Jelandi ci dà questa testimonianza con due celebri film degli anni 60. I due film che possono essere considerati il vero simbolo di quest'epoca sono Il Sorpasso e L'Ombrellone, entrambi diretti da Dino Risi. Il primo dei due, girato nel 1962, ritrae con grande precisione psicologica l'Italia del boom, celando appena l'embrionale pessimismo caratteristico della produzione cinematografica del decennio successivo, ma già evidente nella vicenda dei protagonisti, Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, i quali trascorrono un movimentato ferragosto a bordo di una potente auto sportiva, tra spiagge e locali affollati, fino al tragico finale che sottende l'irresponsabilità, l'artificialità e il vuoto di fondo dell'euforia, destinati a pervadere progressivamente gli animi degli italiani, quando prosperità e ricchezza saranno ormai agli sgoccioli. E come ben si rappresenta nell'Ombrellone, 1965, Overisi ritrae una società di arricchiti senza morale, intenta a godersi gli ultimi istanti di un benessere in declino tra la spiaggia, le canzonette e gli yacht, che sono gli elementi di un divertimento quasi obbligato, in una riccione balneare alle cui porte una serie di incidenti automobilistici vuole ricordare l'effimera essenza della vita. E sempre in tema di viaggio, ancora più avventuroso per la verità, vi segnalo, sempre pubblicato da Mursi, il libro di George Meagan, che è un ex ufficiale della Marina Britannica e grande camminatore, che racconta una sua avventura in La Grande Camminata, dalla Patagonia all'Alaska in 7 anni, 468 pagine, 19 euro, tradotto da Fabio Bernabei e Giuseppe Pallavicini, dal sud al nord del continente americano in una spedizione che si concluse nel 1983. Meagan era partito appunto 7 anni prima con 8.000 sterline in tasca, nessuna sponsorizzazione, e qui abbiamo la cronaca di questa impresa che resta, pare, la più lunga traversata ininterrotta compiuta con più di 30.000 chilometri percorsi. Un cammino che Meagan scelse in verticale nel continente per non fare il solito, tra virgolette, giro attorno al globo. Abbiamo parlato un momento dei viaggi di Lutero e allora vi segnalo di Reinhard Dittmann, In viaggio con Lutero. È pubblicato da Claudiana, 156 pagine, 15 euro, ed è curato da Alberto Saggese. Qui troviamo le varie tappe del percorso nel mondo appunto di Martin Lutero, con testi e immagini che rappresentano una vera e propria biografia illustrata del riformatore, oltre che una insolita guida turistica. E a proposito di Lutero, una lettura molto critica su questa figura è quella di Angela Pellicciari, una storica del Risorgimento, che pubblica con Cantagalli Martin Lutero, 174 pagine, 12,90 euro. Qui l'autrice esamina criticamente quello che lei appare come una acritica esaltazione di Lutero e del protestantesimo. Secondo la Vulgata, infatti, la controriforma avrebbe rappresentato la negazione della modernità, la mancanza di etos civico, un particolarismo antisociale collegato alla faciloneria con cui affronteremmo le responsabilità individuali e chiuderemmo per quieto vivere un occhio più o meno su tutto, scrive l'autrice, che confessa: non sono d'accordo su questa valutazione, qua spiega perché, esaminando appunto molte pagine e molte esperienze di Martin Lutero, per esempio dimostrando che a suo parere non fu affatto lo scandalo delle indulgenze a provocare la riforma, e chiude il libro poi una serie di pagine con i durissimi attacchi di Lutero alla Chiesa e al Papa. Nella stessa serie dei viaggi di Martin Lutero troviamo un giurista molto appassionato di Bach, al quale ha dedicato molte opere, Gianni Long, che pubblica il libro In viaggio con Bach. È pubblicato sempre da Claudiana, 176 pagine, 15 euro. La stessa impostazione del libro precedente, qui si parte da Eisenach per arrivare a Weissenfels e a Lipsia, che ci fa avvicinare al grande compositore. Dal libro traggo alcune righe sulla sua ultima città, Lipsia, dove Bach compose due opere che forse avremmo avuto modo di riascoltare, almeno per alcuni brani, nei giorni passati, le due passioni, secondo Giovanni e secondo Matteo. Quella maxi cantata che è la passione assomiglia alla cantata per l'alternarsi di arie, cori, duetti e corali, che ricordiamo sono gli inni della Chiesa noti a tutti i fedeli. La differenza è che una cantata dura, tranne casi particolari, 20-30 minuti. Una passione, 2-3 ore. Quella a due cori è ben nota. È la Passione secondo Matteo. Scritta per la Thomas Kirche, aveva due tribune per il coro. Sembra che sia stata scritta nel 1727 e poi replicata, secondo la regola degli anni alterni, nel 1729. Ne abbiamo una particolare autografa di Bach, che non è quella originale, poiché introduce diverse varianti, risalente forse a un'esecuzione del 1733. La Passione secondo Giovanni è l'altra che ci è arrivata per intero. Secondo alcuni, sarebbe stata eseguita a Lipsia nel 1723, quando Bach non era ancora stato assunto, come prova d'esame. In tal caso avrebbe riciclato una favoleggiata passione scritta a Weimar, di cui non è mai stata trovata traccia. È assai più probabile che sia stata eseguita nella Nikolai Kirche, dove toccava la passione di quell'anno, nel 1724, ed è poi stata eseguita almeno altre quattro volte a Lipsia durante la vita di Bach, introducendo varianti significative a ogni nuova ripresa. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di viaggi, allora vi segnalo il libro di un'autrice catalana, Maricel Martí, illustrato da Xavier Salomò, che si intitola 10 città e un sogno, è pubblicato da Galluccio e tradotto da Ilide Carmignani, 19,50 euro, un libro a tre dimensioni sulle città più belle del mondo, che di Roma in particolare ci offre una vista molto bella sul Colosseo. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Fabio Cantadori in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro ancora buona Pasqua, vi do appuntamento a domenica prossima.